Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti, o forse potrei dire bentornati, a Mr. Kilowatt, che ricomincia oggi con il nuovo palinsesto a percorrere i territori dell'energia. Il format è lo stesso dell'anno scorso, quindi una pillola quotidiana, 6 minuti per aprire una finestra sulla trasformazione epocale del paradigma energetico in cui siamo dentro fino al collo, questo volenti o nolenti, e che rappresenterà con tutta probabilità la sfida, o comunque una delle sfide più importanti di questo nostro ventunesimo secolo. 6 minuti che dedicheremo a una notizia, oppure a una nuova tendenza o una nuova direzione di sviluppo. Ed è proprio da una notizia, o meglio da un insieme di notizie, che partiamo, perché si è appena chiuso il 2010 e, sebbene non ci siano ancora dati ufficiali, si rincorrono ormai le stime relative a quanto fotovoltaico è stato installato nel corso dell'anno nel paese, e soprattutto ci sono le prime previsioni per il 2011. Diciamolo subito, siamo davanti a numeri davvero sorprendenti, sorprendentemente alti, e questo nonostante, anche per quanto riguarda il 2011, le condizioni economiche saranno un po' meno favorevoli dell'anno scorso. Parliamo di tutto questo con Alessandro Bianchi, amministratore delegato di Nomisma Energia. Buongiorno Bianchi. Un saluto a tutti, a chi ci ascolta. Allora Bianchi, io ho qua davanti un po', insomma, di articoli, di stime. Per esempio il GSE, cioè il gestore dei servizi energetici, stima in circa 1500 megawatt l'installato nel 2010 in Italia, cioè più o meno quanto era stato installato fino al 2010, raddoppio del parco fotovoltaico in un solo anno. Addirittura un'altra società che si occupa, diciamo, di studi di mercato, parliamo di eSupply del gruppo IHS, una società americana, stima in 1900 megawatt quelli installati in Italia nel 2010, e addirittura in 3900 megawatt la previsione per il 2011, quindi un altro raddoppio dopo un raddoppio. Voi di Nomisma Energia cosa ne pensate? Vi sembrano, tanto per cominciare, dei numeri, insomma, che stanno in piedi? Allora, innanzitutto c'è la sorpresa, ma neanche troppo, di questo dato di chiusura del 2010, di questo preconsuntivo, che ha dello strabiliante, ma per chi poi opera nel settore effettivamente ha un riscontro anche in tutta una serie di attività che abbiamo toccato con mano, che andiamo a percepire. Quindi già qua possiamo dirci che il mercato del fotovoltaico si è finalmente svegliato e ha dato il suo meglio nel 2010. Effettivamente nel 2011 senza dubbio ci sorprenderà, perché andremo a superare senz'altro questa cifra di installato. Il raddoppio dell'installato, addirittura i 3,9 giga paventati, oddio, potrebbe essere, diciamo, uno scenario alto, laddove una serie di timori che pure esistono circa le reazioni del territorio e delle singole regioni a livello normativo potrebbe effettivamente... Per esempio una certa ostilità nei confronti del fotovoltaico su campo agricolo. Terra. Sì, resta certo. Comunque un potenziale blocco la certo. Regione per non sottrarre il territorio a... Peraltro il nuovo conto energia comunque incentiva già poco, diciamo, in campo agricolo il fotovoltaico, incentiva molto invece il fotovoltaico integrato negli edifici, di cui poi parleremo tra l'altro più approfonditamente nella puntata di domani. Ma infatti noi ci aspettiamo proprio una crescita forte di già nel 2011 di questo segmento, installazione sui tetti per autoconsumo, e comunque sia una prosecuzione anche dei grandi impianti. Rendiamoci conto che l'Italia in questo momento sta esprimendo incentivi molto alti e in più strutturalmente ha un irraggiamento molto elevato, il che porta a un'elevata redditività dell'investimento. Tanto che, insomma, qualche logica speculativa non è che manchi, diciamolo pure chiaramente. Ecco, a proposito di entità degli incentivi, com'è rispetto per esempio agli altri paesi europei? Allora, le posso soltanto dire che l'Italia è in testa rispetto a un indice di attrattività dell'investimento, al di sopra di Spagna, al di sopra della Grecia, ed è a livello mondiale al terzo posto, seguendo soltanto alcuni stati particolarmente generosi degli Stati Uniti e l'India, in cui c'è poi una componente anche legata alla grande potenzialità di crescita. Quindi in questo momento l'Italia si classifica al terzo posto a livello mondiale come attrattività del sistema. Come mai sono così alti gli incentivi nel nostro paese? Insomma, visto che non navighiamo proprio in acque eccezionali. C'è stata una scelta molto forte, una scelta politica innanzitutto, di creare questa industria, di colmare il gap che comunque caratterizzava l'Italia rispetto a paesi meno vocati da un punto di vista solare, tipo la Germania. Quindi direi che la scommessa in qualche modo è stata parzialmente vinta. Bisognerà poi valutare se effettivamente si manterrà questa scelta politica oppure si riterrà di dirottare parte di questi... di queste risorse, insomma, da qualche altra parte. Ecco, esatto. Il costo del modulo fotovoltaico, che cosa pensate che accadrà nel 2011? Nel 2010 è diminuito mica male. Esatto, esatto. Allora, innanzitutto la redditività resta alta per effetto uno delle tariffe che restano comunque incentivanti, anche se ridotte rispetto all'anno precedente. La curva del costo dei moduli comunque è stata in decrescita, però ricordiamoci che in questo momento abbiamo una situazione dei moduli di tipo oligopolistico, quindi con 4-5 produttori cinesi in grado, e questo lo si è sperimentato anche in alcuni momenti del 2010 in maniera ben precisa, in grado di a livello di in 24 ore di innalzare del 20% i prezzi dei moduli, quindi facendo cartello, è un cartello efficientissimo, efficacissimo. E ricordiamoci anche che la Cina sta entrando direttamente negli investimenti finali, quindi sta installando, modificare il proprio approccio. Grazie Alessandro Bianchi. Un saluto a tutti e ringrazio. Bene, si conclude qui la prima puntata di Mr. Kilowatt del 2011. L'appuntamento è per domani sera con delle valvole molto intelligenti. Stessa ora, stessa radio. Buona serata.